Sono più di 100 anni che al parco della luna arriva Sonny Boy coi cavalli di legno e la sua donna Fortuna, i denti di ferro e gli occhi neri puntati nel cielo per capirne i misteri. È nato a Ferrara, anzi l'hanno trovato su un muro, è pieno di segni e i muscoli corrono sulla sua pelle. Sonny Boy ha disegnato sulle braccia la mappa delle stelle e di notte va a caccia con il cavallo, raccoglie chi si è perduto. Anch'io quante volte da bambino ho chiesto aiuto, quante volte da solo mi sono perduto, quante volte ho pianto e sono caduto. Guardando le stelle ho chiesto di capire come entrare nel mondo dei grandi senza paura. Nel cielo puntati sul futuro. Dei suoi 1000 figli non ricorda un viso, ne ha avuto uno per coltello, ha fatto un figlio per ogni nemico ucciso. Sonny Boy non è cattivo, ha perfino sorriso guardando Fortuna, accarezzandole il viso. Li ho visti abbracciarsi come bimbi nel parco della luna, tutti e due con una valigia nella mano, con l'aria di chi deve partire e andare lontano oppure morire in silenzio, sparire piano piano sopra il loro cavallo di legno, con la loro pelle scura nella mano. Adesso Sonny Boy e la sua donna Fortuna saranno a metà strada tra Ferrara e la Luna.